Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ancora una volta e per la seconda settimana consecutiva il tema di questa puntata torna ad essere quello della difficoltà di rientro in Italia per i nostri giovani professionisti espatriati. Sembra incredibile, ma è così. Siete giovani? Avete accumulato esperienze internazionali? Avete fatto progressi di carriera inimmaginabili in Italia? Conoscete cos'è a fondo il concetto di globalizzazione? Beh, qui non serve, troppo spesso è semplicemente inutile. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato la storia di un ingegnere civile, oggi invece sarà la volta di un giovane medico oncologo al lavoro negli Stati Uniti. Ha lasciato prima Napoli, poi l'Italia per scelta, per andare a formarsi all'estero. Dopodiché, quando si è riaffacciato sul nostro mercato del lavoro... Ho parlato con colleghi in ospedale che mi dicevano che le persone interne che avevano già stavano aspettando e comunque avevano un'ottima esperienza di ricerca, pur non avendo mai lasciato la propria città. E ovviamente non posso che credergli. Poi ho parlato con qualche altro ospedale invece che voleva prendermi, avevano valutato un po' il budget, ma non avrebbero potuto far partire un concorso perché non avevano il budget per farlo. Qualcun altro mi ha proposto di rientrare, però condizioni un po' dure e poco pagate. Giovanni Abbadessa, 34 anni, è Senior Medical Director per RQ, l'azienda biotech di Boston. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Importante riconoscimento internazionale nel corso dell'ultima settimana per questa trasmissione radiofonica. Giovani Talenti è stata citata dal magazine americano Time all'interno del reportage Arrivederci Italia, interamente dedicato al fenomeno dell'espatrio dei giovani qualificati dal bel paese. L'articolo di Time, il più prestigioso settimanale a livello mondiale, ha riaperto il dibattito sui media italiani. I giovani laureati italiani emigrano in misura 4 volte superiore alla percentuale di Francia e Germania, così il responsabile economico del PD Enrico Letta, commentando l'articolo di Time. Letta ha lanciato un appello affinché si acceleri l'approvazione in Senato del progetto di legge contro esodo per il rientro dei giovani under 40. E a smuovere il dibattito negli ultimi giorni sul tema della fuga dei talenti ha contribuito anche la giornalista Claudia Cucchiarato, autrice del libro Vivo Altrove, che sul sito repubblica.it ha lanciato un censimento dei nuovi italiani espatriati, un censimento dagli esiti sorprendenti. Oltre la metà di loro non si iscrive all'anagrafe degli italiani all'estero, l'AIRE. Sentiamo. La reazione dal punto di vista quantitativo è sconvolgente perché siamo attorno ai 23.000 contatti in poco più di 10 giorni, poco più di 2 settimane. Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Più del 55% delle persone che si sono registrate fino ad oggi non è iscritta all'AIRE. E l'altra cosa che mi ha colpito molto sono le persone che si raccontano, sono tutte persone molto deluse. Io pensavo che ci fosse un po' più di anche amore verso il nostro paese, comunque di nostalgia, e invece no, ho visto anche questo caso confermato che le storie sono tutte storie abbastanza dure. Per riassumere, giovani qualificati e delusi dall'Italia. Sì, il 70% delle persone che si è raccontata finora ha una laurea, quasi il 20% ha anche un dottorato, quindi insomma siamo già oltre al 90% delle persone che si sono censite su repubblica.it che ha una formazione alta o altissima. Cresce l'interesse nei confronti dei giovani italiani residenti all'estero e iniziano a svelarsi i numeri di un fenomeno del quale non si hanno dati certi, ma è di una tale portata che deve far tremare le gambe a sociologi, studiosi e politici. Così Gabriele Di Mascio, responsabile dell'Unione Italiani nel Mondo. Un lavoro all'estero è visto positivamente perché rispetto all'Italia consentirebbe un maggior riconoscimento dei propri meriti e maggiori possibilità professionali. A pensarlo sono l'89% dei laureati secondo una ricerca dell'agenzia di selezione Bachelor. Intanto il sito jobmeeting.it ha aperto un sondaggio dal titolo emblematico «Lavorare all'estero o fuga dall'Italia?». Una giovane italiana su 2 trova posto grazie a parenti e conoscenti, cresce il peso dell'online e del web, ma sono ancora le segnalazioni, le raccomandazioni e le reti personali il maggior canale utilizzato per trovare impiego nel bel paese. Lo rivela il quotidiano La Stampa, secondo il quale il 55,3% dei giovani italiani trova lavoro attraverso amici, parenti e conoscenti. Più in generale, 3 giovani su 4 sono stati assunti con strumenti informali e non professionali. Infine vi segnaliamo 2 eventi, entrambi in corso oggi. A Padova si premiano gli Young Venetian Excellence, veneti under 35 che si sono distinti nel mondo. A Roma fa invece tappa il progetto Italia Camp, animato da giovani, anche in questo caso under 35, che intendono elaborare idee di rinnovamento dell'Italia. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un Economic Affairs Officer al WTO di Ginevra, richiesto un PhD in economia, scadenza per i CV 29 ottobre, info su wto.org. Un analista di sistema allo European Center for Medium Range Weather Forecast di Reading, in Gran Bretagna, richiesta la conoscenza dell'ambiente UNIX, scadenza per il CV 26 ottobre, info su icmwf.int. E infine un direttore per l'ufficio COST per la cooperazione europea nel settore della scienza e della tecnologia a Strasburgo, in Francia, scadenza per il CV 2 novembre, info su esf.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta a Boston, la più europea delle città americane, per parlarvi della vicenda di un giovane medico. Nome: Giovanni. Cognome: Abbadessa. Età: 34. Città di origine: Napoli. Studi: medicina e chirurgia, poi oncologia, clinica, poi dottorato di ricerca in genetica oncologica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Philadelphia. Perché? Per fare esperienze in laboratorio. Quale lavoro svolge attualmente? Sono Senior Medical Director. Dove? Alla Arcul, è una biotech di Boston. Tornerai? Tornerò permanentemente, chissà. I'm shipping up to Boston, Dropkick Murphys, canzone di punk celtico presto divenuto un cult nello sport cittadino locale appunto di Boston. Sono fuggito dall'Italia? No, ma non ci sono potuto tornare. Così scrivi con estrema sincerità Giovanni in una email a giovanitalenti@radio24.it. Partiamo allora da qui. Pensi sia questo il vero problema che accomuna la quasi totalità dei nostri giovani espatriati e perché l'Italia non rappresenta un polo di attrazione per chi l'ha lasciata? Io posso parlare dell'ambito che riguarda medici e soprattutto ricercatori. Uno dei problemi principali per i ricercatori in particolare è probabilmente il modo in cui funziona l'università e in secondo luogo il modo in cui funzionano gli ospedali e le modalità di assunzione. Mentre qui negli Stati Uniti l'assunzione dipende semplicemente dal curriculum, molto più raramente da raccomandazioni e funziona in base a colloqui. In Italia le cose funzionano un po' diversamente. Il metodo dei concorsi è un metodo che va avanti da molto tempo, ma è un po' più asettico e evidentemente, almeno per quanto mi sembra di capire, il peso che le raccomandazioni hanno sembra avere un po' più di influenza che qui. Questo è negativo, purtroppo è negativo. Questo purtroppo è negativo. Bisogna aggiungere però che c'è anche chi lavora per vari anni gratis nei reparti e quindi poi ovviamente si cerca di favorirli per far entrare loro. Però a quel punto a chi si laurea, a chi si è appena specializzato, c'è la scelta che faccio, rimango qui nella mia città e mi accodo, esatto. o vado fuori. O mi specializzo e divento qualcuno, prendo, accumulo professionalità maggiori, questa è la domanda. Però Giovanni, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato negli Stati Uniti, studi medicina a Napoli, perché la scelta di questa professione? Perché mi è sempre interessata la ricerca e l'aspetto scientifico e il fatto di poter avere un impatto sulle persone, un impatto concreto, e quindi che quello che studiavo e il tempo che passavo a lavorare servisse per aiutare persone. Tu lasci Napoli, diciamo tuo malgrado, ti criticano gli amici che non capiscono la tua decisione di lasciare la città dove insegnava anche tuo padre, né i milanesi sembrano molto calorosi, diciamo, nell'accoglienza, per usare un eufemismo. Cosa ti spinge a fare questa scelta? La decisione di lasciare Napoli è nata dal fatto che volevo a quel punto occuparmi di oncologia. Mio padre è un oncologo, ematologo abbastanza noto a Napoli, in Campania, e quindi quando ho deciso di fare questo ho capito che se fossi rimasto lì sarei rimasto sempre alla sua ombra, qualunque posizione mi fossi guadagnata sarebbe... Io ti apprezzo per quello che stai dicendo, perché non so quanti farebbero il tuo stesso discorso. Bravo. Beh, no, ci sono persone che cercano di fare un'esperienza un po' indipendente, molti poi però ritornano perché ovviamente la tentazione di approfittare di un appoggio in casa per un posto tranquillo e sicuro c'è, e bisogna dire anche che per fortuna alcuni di quelli che tornano, che hanno fatto una buona esperienza all'estero, grazie a questo appoggio poi riescono ad avere una posizione in Italia, ma almeno hanno un'esperienza fatta in una maniera un po' più aperta e in cui si sono messi a confronto, per cui è vero che rientrano con la raccomandazione, però rientrano per migliorare. Dobbiamo correre un po' per riassumere le tappe della tua carriera. Prodi a Milano all'Istituto Humanitas, come ci arrivi? Quali sono anche un po' i ritmi di lavoro e di vita milanesi un po' più accelerati e cosa ti ha dato quell'esperienza? Ci sono arrivato scegliendo qual era il posto in Italia che aveva la maggior concentrazione di esperienza in oncologia. I ritmi erano molto molto intensi, si lavorava dalla mattina alla sera con turni di weekend, turni di notte, però questo per una persona che sta facendo formazione è fondamentale. Devo un po' riassumere perché il tempo è tiranno. Tu comunque concludi la specializzazione a Milano, ti trasferisci a Filadelfia, dove, questo è un dettaglio che mi ha fatto abbastanza ridere, l'integrazione è stata meno difficile rispetto a Milano, partendo diciamo da Napoli. A Filadelfia però ti trovi insomma in una situazione di oggettiva difficoltà. Devi costituire un laboratorio, devi fare ricerca, l'America non è il Bengodi ma ti offre un'opportunità e tu in 3 anni ce la fai. Raccontaci come. Sì, è stato molto interessante. Lì ho riscoperto un po' l'importanza della napoletanità e del fare network e dell'arrangiarsi. Io sono arrivato all'Università di Filadelfia per fare terapia genica in tumori umani trapiantati in modelli sperimentali. Poi però sono arrivato lì e ho scoperto che in realtà non era attivo poi troppo in quel momento il laboratorio animale, quindi ho dovuto costruirlo da zero. Addirittura ho finito per costruirlo in un dipartimento diverso da quello cui era andato e le persone con cui poi ho lavorato di più e che mi hanno insegnato di più sono state persone che ho incontrato a tavola nei ristoranti, perché la bellezza di quella città è che ci sono tante università in centro e mi sono trovato a fianco a tavola in una pizzeria un genio della terapia genica, un tedesco molto molto gentile con cui poi ho imparato in un'altra università, ho imparato a fare varie tecniche che poi ho applicato nel laboratorio che mi ero creato. Giovanni, alla fine del triennio a Filadelfia tu provi a tornare in Italia, l'hai accennato prima, ti metti sul mercato, la risposta dal bel paese qual è? Varia, ho parlato con colleghi in ospedali che mi dicevano che le persone interne che avevano già stavano aspettando e comunque avevano un'ottima esperienza di ricerca pur non avendo mai lasciato la propria città e ovviamente non posso che credergli. Poi ho parlato con qualche altro ospedale invece che voleva prendermi, avevano valutato un po' il budget ma non avrebbero potuto far partire un concorso perché non avevano il budget per farlo, qualcun altro mi ha proposto di rientrare però condizioni un po' dure e poco pagate. A quel punto ho cominciato a guardarmi anche fuori dagli ospedali, a vedere un po' in aziende. Ho avuto un'offerta abbastanza importante da una sede italiana di un'azienda internazionale che però poi dopo i primi colloqui molto positivi con i medici ho avuto il colloquio col capo del personale, con i dirigenti dell'azienda e mi sono cadute un po' le braccia, sembrava che mi stessero facendo un favore a darmi una posizione che effettivamente era di gestire tutta l'oncologia nazionale per quell'azienda, però comunque l'idea che mi stessero facendo un grandissimo favore mentre allo stesso tempo qui avevo un'offerta da un'azienda internazionale per gestire la ricerca Lo sai, mondiale. Giovanni, questo discorso lo sento fare da tanti giovani espatriati, cioè sembra sempre che ti facciano un favore in Italia, io veramente mi chiedo perché, dopodiché devo riassumere la tua carriera professionale, decidi di restare negli Stati Uniti e emigri all'interno però degli Stati Uniti verso Boston dove ti trovi a lavorare in un paio di aziende tra cui l'ultima, la Arcul, dove in pochi mesi diventi anche Senior Medical Director. Di cosa ti stai occupando? Quest'anno abbiamo presentato sia al congresso di oncologia negli Stati Uniti che adesso questo fine settimana a quello in Italia, come con la nostra molecola riusciamo quasi a raddoppiare la sopravvivenza libera da malattia in pazienti con carcinoma polmonare. Questo è un risultato eccezionale. Io do il benvenuto a Paolo Macchiarini, chirurgo italiano che ha realizzato il primo trapianto di trachea senza immunosoppressione. Quest'estate, professor Macchiarini, lei ha fatto abbastanza parlare di sé annunciando di voler lasciare l'università fiorentina e praticamente di riespatriare. Mi ha colpito una sua dichiarazione. Lei ha detto: ci sarebbero in Italia moltissimi giovani con un sacco di voglia di fare e una preparazione ottima. Quel che li stronca è la gerontocrazia che impera nelle aule e negli ospedali e la mentalità negativa. Professor Macchiarini, hanno un futuro i giovani di questo paese? Ma senz'altro il futuro ce l'hanno, perché la loro capacità di imporsi, la voglia di acquisire cose nuove nei diversi campi scientifici e non a livello mondiale, secondo me, è superiore a molti altri giovani di altri paesi. Lei ha scelto di lasciare per la seconda volta l'Italia, praticamente di riespatriare. Ora di cosa si occupa? Ho avuto un'offerta dal Karolinska, dove inizierò la mia attività accademica e clinica ben presto e continuo le mie attività di ricerca e cliniche in Europa e nel mondo. Prima di cedere la linea al traffico, un'ultima domanda di rito, ma in un flash veramente a Giovanni Abbadessa. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? È un paese particolare. Io tutto quello che ho conquistato qua credo di doverlo soprattutto alla mia italianità, perché non credo di essere un genio. Quindi l'Italia ha enormi potenziali. Come diceva Macchiarini, molte persone hanno una mentalità un po' negativa dovuta al modo in cui funziona il sistema e non credono nelle loro capacità per quello, per cui sono scoraggiate. Io credo che il sistema italiano, in teoria, il modo in cui è organizzato è molto buono, almeno dal punto di vista del sistema sanitario e della ricerca, e che le regole come al solito non vengono fatte applicare. Non c'è bisogno di mettere mettere regole più restrittive e impedire, non so, di fare attività alla fine del proprio orario di lavoro. Credo che sia fondamentale che però le persone restino e lavorino bene durante il loro orario di lavoro, e che al momento non succede. Restringere le libertà, aumentare le regole restrittive, serve solo a limitare la libertà di chi le regole le segue, non di chi non le segue comunque. Chi non le rispetta farà ancora più il proprio comodo. Non credo che bisogna cambiare l'organizzazione, ma più che altro il rispetto delle regole, il rispetto dell'organizzazione che già c'è in Italia. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giovanni Abbadessa, 34enne Senior Medical Director nell'azienda di Boston Arcule Pharmaceuticals. Giovanni è arrivato nella capitale del New England al termine di un percorso professionale che l'ha prima visto spostarsi da Napoli a Milano per specializzarsi, poi varcare l'Oceano Atlantico per fare esperienza di ricerca in laboratorio. Da lì Giovanni non è più tornato, proseguendo il proprio lavoro nel campo della medicina oncologica. Ci raggiunge ora in linea il professor Armando Santoro, direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Istituto Clinico Humanitas. Santoro, lei conosce bene Giovanni, se non sbaglio gli ha anche offerto di tornare, è stato negli anni milanesi un po' il suo mentore. Comprende e condivide i motivi che lo tengono dall'altra parte dell'oceano, motivi poi non dissimili da decine di migliaia di giovani professionisti espatriati. Sì, buona parte le posso anche riconoscere e capire, fanno parte anche delle motivazioni di molti altri giovani italiani che vanno all'estero e decidono di fermarsi all'estero perché trovano un percorso professionale che reputano più valido, più interessante. Però contemporaneamente mi sento di dire che non sempre è così. Io forse ho una visione un filino più ottimistica del quadro italiano complessivo. Ma Chiaridi, anche lei è ottimista? Io no, mi dispiace, non sono affatto ottimista. Io vi do alcune cifre, tra l'altro appunto per chi si fosse messo in collegamento ora abbiamo in linea anche il professor Paolo Macchiarini, un chirurgo del torace che è riespatriato, la cui storia è stata raccontata anche questa estate dai giornali. Vi do alcune cifre: nel luglio 2009 in 400 si presentarono a Bologna tra medici, infermieri e ostetriche per cercare un posto di lavoro all'estero, destinazioni Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi. Oltre 1600 i professionisti del settore medico espatriati negli ultimi anni con queste fiere, pochi quelli rientrati. A Pavia ci sono danesi e svedesi che fanno shopping di medici italiani reclutandoli attraverso Eures, e tra il 2003 e il 2007 1048 medici italiani hanno lasciato l'Italia con destinazione Gran Bretagna. L'Italia cosa offre loro? Abbiamo sentito cosa offrono questi paesi. L'Italia cosa offre a questi giovani medici? Santoro. Il problema è anche che in alcuni paesi c'è una carenza di laureati in medicina, e quindi questa campagna di ricerca dipende anche da necessità di adeguamento organico. Carenti, sicuramente ci sono più studenti universitari e quindi più laureati in medicina in Italia rispetto a tanti altri paesi nord europei e forse anche agli stessi Stati Uniti. Io credo che comunque se uno va a verificare in alcuni settori della medicina i risultati ottenuti in campo italiano, mi sembrano particolarmente invidiabili e pongono il nostro paese in una situazione sicuramente non di retrovia, ma direi anzi di apripista insieme a diversi altri paesi europei come la Francia, la Germania e come sicuramente gli Stati Uniti. Macchiarini, cosa offre l'Italia a un giovane medico? Ma io direi poche cose, niente, perché al di fuori dei servizi di medicina di base, chi vuole eccellere purtroppo è obbligato ad andarsene via. Faccio questa affermazione semplicemente perché i giovani laureati si formano benissimo all'università, soltanto che poi non c'è spazio nel posto universitario, perché purtroppo i cosiddetti professori ordinari o coloro che sono lì o associati o ricercatori sono loro stessi vittime del sistema universitario italiano, e quindi non c'è nessunissimo spazio a corta scadenza per i giovani medici. Sempre meno studenti vogliono fare medicina, quindi l'Italia secondo me ha bisogno di un cambio generazionale. Non è possibile che coloro che comandavano 20 anni fa sono ancora allo stesso posto. Problemi che i giovani medici denunciano spesso: la fila, l'attesa snervante di chi deve studiare, specializzarsi, ma soprattutto agganciarsi al carro giusto per poter emergere. Poi gli stipendi: per l'Ordine dei Medici di Roma il 30% dei medici tra 27 e 38 anni denuncia condizioni di vero e proprio sfruttamento. E il merito dov'è, Santoro? Il problema è un po' più generale. Ad esempio sentivo prima Macchiarini nel suo intervento che mi parlava dell'università. Probabilmente il percorso universitario è più complesso, però fortunatamente, viva Dio, l'Italia c'è anche una sanità che non è universitaria, che probabilmente ha dei percorsi diversi. Si stanno aprendo tante strutture private accreditate che stanno un po' scardinando il vecchio sistema, che offrono dei molto più agili, molto più semplici, che permettono anche una carriera che è sicuramente più rapida e diversa dai canoni stereotipati che magari si trovano nell'università o in alcune strutture pubbliche. E anche di questo si deve tenere conto quando si parla del problema italiano in genere, del problema dei giovani che vanno via. Le file ci sono, senza ombra di dubbio, però non è che il fatto che uno vada all'estero e sia 5 anni all'estero automaticamente significa che è più bravo di uno che magari ha fatto solo un anno o 2 anni e poi è rientrato portando l'esperienza che ha acquisito. Cioè, io questa visione così negativa di tutto mi sembra che non rispecchi la realtà dei risultati ottenuti in campo sanitario, in campo di ricerca dall'Italia. Ma Chiarini? Io penso che bisogna fare la differenza tra struttura pubblica e struttura privata, che non ha niente a che vedere, è uno specchio diverso come in qualsiasi altro paese. Detto ciò, lei stesso ha detto: gli studenti dicono che bisogna attaccarsi al giusto carro. Questo è profondamente ingiusto, perché non viene assolutamente favorita la meritocrazia. Un ragazzo giovane che ha voglia, che è brillante, deve andare avanti. Coloro che purtroppo non lo sono devono rimanere indietro o svolgere qualsiasi altra cosa. E purtroppo il sistema italiano è fatto così, che la ricerca molto spesso al di fuori dell'aspetto privato si svolge a livello universitario, e l'università è in mano a pochi che non favoriscono il giovane. Io ringrazio il professor Armando Santoro e il professor Paolo Maccherini. Purtroppo dobbiamo chiudere qui per problemi di tempo. Un'ultima domanda però diritto a Giovanni Abbadessa, protagonista di questa puntata: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di guardar bene dove andare e cercare di, se ha interesse a ritornare in Italia, di fare un programma di espatrio che serva ad arricchirlo, ma pianificandolo con il posto in cui vorrebbe poi rientrare in Italia. Ma anche quando va all'estero, di non arrendersi, o non pensare innanzitutto che si va nel paese del Bengodi, dove tutto è facile e tutto gli viene dato, anzi, e non arrendersi all'inizio quando magari è difficile incominciare, ma essere perseverante. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi restiamo a Boston, dove si è da pochi mesi costituito un gruppo di giovani professionisti italiani. Professionisti italiani a Boston, questo è il suo nome. Francesco Fragasso, cofondatore di PIB. Il gruppo professionisti italiani a Boston nasce un annetto fa, anche a seguito, diciamo, dell'incoraggiamento del console generale d'Italia a Boston, che ha individuato una enorme partecipazione, presenza di italiani di livello professionale elevato, e che è un po' il profilo di immigrato molto diverso da quello che generalmente si è visto negli Stati Uniti. Quindi questo gruppo ha messo insieme i numerosi italiani che nell'area di Boston svolgono diverse attività professionali, e con lo scopo di metterli in contatto, di promuovere il loro networking personale, ma anche di promuovere nell'area di Boston le opportunità professionali ed economiche che ci sono in Italia. Quanti siete? Ad oggi, dopo un annetto, siamo circa 400 membri. Diciamo, siamo abbastanza rigorosi nell'accettare le richieste di partecipazione, perché vogliamo mantenere la natura altamente professionale del gruppo. Quanta incidenza hanno i giovani under 35 e under 40 all'interno di PIB? Sono la maggior parte. Io personalmente ho 42 anni e sono probabilmente tra i più anziani, quindi il grosso dei membri ha tra i 28 e i 38 anni. E che professioni svolgono soprattutto? Prevalentemente sono medici o ricercatori nell'ambito farmaceutico o scientifico, ingegneri che svolgono attività o di consulenza o di ricerca o di insegnamento all'interno delle università, e un background finanziario, e si occupano o di investimenti, di mercati finanziari, ma anche di venture capitalist. Quali motivi li spingono, li portano, a volte magari li forzano a lasciare l'Italia e ad approdare, a tentare anche la sorte negli Stati Uniti? È un'emigrazione dall'Italia un po' diversa, direi più volontaria, in cui c'è la volontà di prendere una sfida un po' più impegnativa, di provare una strada diversa. Quindi, diciamo, le motivazioni sono le più varie. Sono però persone che avrebbero potuto avere le stesse possibilità in Italia? Non necessariamente. Molte volte, ecco, diciamo, anche se volontaria, è spinta anche dalla fatto che ci sono opportunità e potenzialità molto diverse negli Stati Uniti rispetto all'Italia. Sicuramente per alcune professionalità le opportunità in Italia sono estremamente limitate. Che tipo di attività svolgete come associazione? Quali sono le iniziative più frequenti? Noi promuoviamo un'attività di networking tra membri, ma anche di promozione a livello locale dell'alta professionalità che è disponibile in Italia e che è anche presente a Boston. Abbiamo un calendario annuale di eventi sociali, diciamo di aperitivi, ma anche di incontri con professionisti di spicco italiani che invitiamo di volta in volta a presentare a un pubblico anche americano la loro esperienza. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.pboston.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: ritenete che l'Italia sia in grado di offrire posizioni e opportunità professionali importanti a chi rientra dall'estero dopo una significativa esperienza internazionale? Lapidaria la risposta di Davide. Chi torna è sempre visto con sospetto. Ne vale veramente la pena rientrare? Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione aperta in particolare ai nostri giovani medici. Ritenete inevitabile un espatrio dei camici bianchi per ottenere opportunità, salari e posizioni professionali adeguate? E perché risulta così poco attraente per voi giovani medici ipotizzare un rientro in Italia? C'è un problema di valorizzazione e adeguata progressione professionale meritocratica per i giovani medici italiani nel bel paese? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione, e potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.